348. Budino di cervelli di maiale. Per le sostanze che lo compongono, è un budino nutriente ed atto ad appagare, io credo, il gusto delicato delle signore. Cervelli di maiale numero 3. Questi, che possono arrivare al peso di grammi 400 circa, richiedono uova numero 2 e un rosso, panna grammi 240, parmigiano grattato grammi 50, burro grammi 30, odore di noce moscata, sale quanto basta. Per panna intendo quella densa che i lattai preparano per montare. Mettete al fuoco i cervelli col suddetto burro, salateli e rimuovendoli spesso perché s'attaccano, cuoceteli, ma avvertite di non rosolarli, indi passateli dallo staccio, aggiungete dopo il parmigiano, la noce moscata, le uova frullate, la panna e, mescolato bene ogni cosa, versate il composto in uno stampo liscio che avrete unto con burro d'accio e mettetelo al fuoco per stringerlo a bagnomaria. È quasi migliore freddo che caldo, e questa dose potrà bastare a 6 persone.